Terzo anello, ad alta voce, Madame Bovary di Gustave Flaubert. Il marito a cena le trovò buona cera, ma lei parve non sentirlo quando provò a informarsi sulla passeggiata. Poi restò imbambolata con il gomito accanto all'orlo del piatto tra le due candele che si consumavano. Appena si fu liberata di Charles, salì a rinchiudersi nella propria camera. Ebbe subito come una vertigine. Rivedeva gli alberi, i sentieri, i fossati, Rodolphe soprattutto. Sentiva ancora la stretta delle sue braccia mentre le foglie frusciavano e i giunchi sibilavano. Ma vedendosi nello specchio, si stupì della propria faccia. Non aveva mai avuto occhi così grandi, così neri, così profondi. Qualcosa di sottile era diffuso sul suo corpo, la trasfigurava. Si ripeteva: «Ho un amante! Un amante!» Appassionandosi a un simile pensiero come all'idea di una nuova pubertà. Dunque avrebbe posseduto le famose gioie dell'amore, la febbre di felicità di cui aveva disperato. Si inoltrava in un'era meravigliosa in cui tutto sarebbe stato tempesta dei sensi, estasi, delirio. Un'immensità celeste la circondava. Le cime del sentimento scintillavano nella sua mente. L'esistenza normale le appariva ormai così lontana, in basso, nell'ombra, tra i vuoti di quelle altezze. Il giorno dopo trascorse in una nuova dolcezza. I due si scambiarono giuramenti. Lo mise al corrente di tutte le sue tristezze. Lui la interrompeva a baci e lei, contemplandolo attraverso le palpebre socchiuse, lo pregava di chiamarla ancora per nome, di ripetere che l'amava. A partire da quel giorno si scrissero regolarmente ogni sera. Emma andava a nascondere la sua lettera in fondo al giardino, entro la fessura del muro della terrazza, presso il fiume. Rodolphe arrivava a cercarla e a sostituirla con un'altra, che lei ogni giorno non mancava di accusare di eccessiva brevità. Una mattina Charles era uscito presto e lei fu assalita dalla smania di vedere immediatamente Rodolphe. Avrebbe fatto in tempo ad arrivare in un attimo a Laichette, passarvi un'ora ed essere di ritorno a Yonville prima che il paese si svegliasse. Quest'idea la fece addirittura ansare. Si trovò ben presto nella prateria, avanzava a passi rapidi, non si guardava alle spalle. Cominciava appena a spuntare il giorno. Riconobbe di lontano la casa dell'amante dalle due banderuole a coda di rondine che si stagliavano in nero sull'incertezza del cielo. Dietro il cortile della fattoria era il corpo di un fabbricato che doveva essere il castello. Lei vi penetrò di colpo, come se i muri al suo avvicinarsi si fossero spalancati. Una grande scala saliva dritta verso un corridoio. Emma aggirò la maniglia ad una porta e d'improvviso vide in fondo alla camera un uomo addormentato, Rodolphe. Lei uscì in un gran grido. «Sei qui! Sei qui!» ripeteva lui. «Come hai fatto a venire? Oh, ma ti sei bagnata tutto il vestito!» «Ti amo!» replicò lei buttandogli le braccia al collo. Essendole riuscito questo primo colpo di testa, ogni volta che Charles usciva presto, Emma si vestiva in fretta e furia, scendeva a passi di lupo la scaletta che conduceva alla sponda del fiume e si metteva a correre. Arrivava affannata, le guance congestionate. Emanava da tutto il corpo un fresco sentore di linfa, di verzura, d'aria libera. Rodolphe a quell'ora era immerso nel sonno. Era come se nella sua camera irrompesse un mattino di primavera. Ridendo, Rodolphe la tirava a sé. Se la stringeva sul cuore. Per gli addii ci voleva almeno un quarto d'ora. Emma scoppiava in singhiozzi. Avrebbe desiderato restar lì per sempre. Qualcosa di più forte di lei la spingeva verso Rodolphe. E così, un giorno, capitò che, vedendola arrivare d'improvviso, lui si abbuiasse, si dimostrasse contrariato. «Ma cosa ti succede?» protestò lei. «Stai poco bene? Parla!» Alla fine si decise a dirle con un'aria grave che le sue visite diventavano sempre più imprudenti, che le sue visite la compromettevano. A poco questi timori di Rodolphe conquistarono pure lei. Dapprima l'amore l'aveva inebriata, non era stata capace di pensare ad altro. Ma adesso che era diventato indispensabile alla sua esistenza, cominciò a temere di poterne perdere una parte. Temeva anche il minimo turbamento. Quando tornava dalla casa di lui, si lanciava intorno sguardi inquieti. Spiava ogni forma che apparisse all'orizzonte, ogni abbaino del paese da cui avrebbero potuto scorgerla. Una mattina che tornava così agitata, credette di essere presa di mira da una lunga canna di carabina. La canna usciva obliquamente dalla sommità di una piccola botte seminascosta tra le erbe ai margini del fosso. Lei fu sul punto di svenire per la paura, ma continuò ad avanzare e un uomo uscì dalla botte come quei diavoletti che una molla fa saltar su dal fondo di una scatola. Aveva gambali allacciati sino ai ginocchi, il berretto calcato sulla fronte, le labbra tremanti e il naso paonazzo. Era Capitan Binet alla posta delle anitre selvatiche. «Avreste anche potuto dare una voce! Quando si vede un fucile bisogna sempre avvertire!» protestò. L'esattore tentava così di mascherare la paura che aveva appena provata. Infatti, dato che un decreto prefettizio proibiva la caccia alle anitre se non con la barca, il signor Binet si trovava proprio a contravvenire le leggi che lui particolarmente era tenuto a rispettare. A ogni attimo, quindi, si aspettava il sopraggiungere della guardia campestre. E d'altra parte era proprio una simile inquietudine che acuiva il suo piacere. Tutto solo nella sua botte, lui continuava ad applaudirsi per la fortuna di cui godeva e la scaltrezza che dimostrava. Alla vista di Emma parve sollevato da un gran peso e fu subito disposto ad attaccar discorso. «Non fa minimamente caldo, pizzica!» Emma non rispose e quello proseguì. «Fuori di buon'ora, stamani?» «Sì, sono stata dalla balia a vedere la bambina», balbettò lei. «Oh, benissimo, benissimo. Quanto a me, son qui tal quale mi vedete dalle prime luci. Ma il tempo è troppo grigio. Se le anatre non mi vengono a sbatter proprio contro...» «Buongiorno, signor Binet», balbettò ancora lei girandogli le spalle. «Servo vostro, signora», replicò lui seccamente e se ne tornò nella sua botte. Emma si pentì subito di aver lasciato così bruscamente l'esattore. Senza dubbio quello adesso avrebbe fatto supposizioni sgradevoli sul suo conto. La storia della balia poi era la peggiore invenzione che lei potesse tirar fuori. Lo sapevano tutti a Yonville che da almeno un anno la piccola Bovary era stata ripresa in casa dai genitori. Dopo mangiato, Charles, vedendola preoccupata, volle portarla dal farmacista sperando che si distraesse un poco. Ma la prima persona che vide nella bottega fu ancora lui, l'esattore. Stava in piedi davanti al banco, illuminato dal riverbero del boccale rosso, diceva «Per favore, mezza oncia di vetriolo!» Spiegò che aveva bisogno di un corrosivo per combinare da sé un'acqua di rame. Voleva togliere la ruggine a certi suoi arnesi da caccia. Emma trasalì. Il farmacista sentenziò «Effettivamente il tempo non è propizio, troppa umidità». «Eppure c'è gente che non ci fa caso», disse ancora l'esattore con aria maliziosa. Lei soffocava. «Datemi anche...» «Non se ne andrà più», pensava lei. «Una mezza oncia di resina di pino e di trementina, 4 once di cera gialla e 3 mezze once di carbone animale, per favore. Voglio pulire i miei cuoi». Il farmacista stava cominciando a tagliare la cera quando fece la sua apparizione la signora Homais con Irma in braccio. «Come sta la vostra piccola?» domandò d'improvviso la signora Homais. «Silenzio!» intimò il marito che scriveva cifre sul brogliaccio. «Perché non l'avete portata?» riprese quella sottovoce. «Zitta, zitta!» disse Emma, indicando con il dito il farmacista. Ma Binet, tutto assorto nella lettura del conto, non aveva probabilmente sentito nulla e alla fine si decise ad andarsene. Allora, liberata dall'incubo, Emma sospirò profondamente. «Ma come respirate forte?» disse la signora Homais. «Ah, fa caldo qui!» rispose lei. Il giorno dopo pensarono dunque a organizzare meglio i loro convegni. Emma voleva corrompere la domestica con un regalo, ma sarebbe stato meglio trovare una casa discreta a Yonville. Rodolphe promise di provvedere lui. Per tutto l'inverno, 3 o 4 volte la settimana, sfruttarono il giardino. Lui vi arrivava a notte fatta. Lei aveva appositamente tolto la chiave dal cancello. Charles era convinto che fosse andata perduta. Per avvertirla, Rodolphe gettava una manciata di sabbia contro le imposte. Lei si alzava di soprassalto, ma a volte bisognava aspettare. A volte Charles aveva la mania di chiacchierare davanti al fuoco. Non la smetteva più. L'impazienza allora la divorava. I suoi occhi, se avessero potuto, avrebbero fatto saltare il marito dalla finestra. Alla fine cominciava a prepararsi per la notte. Poi prendeva un libro e continuava a leggere tranquillamente, come se la lettura la divertisse molto. Charles, già a letto, la chiamava perché si coricasse. «Vieni, Emma, è ora!» «Vengo, vengo!» rispondeva lei. Ma intanto lui si girava verso il muro perché le candele lo accecavano e così s'addormentava. Trattenendo il fiato, lei se ne scappava, sorridente, palpitante, discinta. Rodolphe aveva un gran mantello. Vi avviluppava tutta Emma, le passava un braccio intorno alla vita. Senza una parola la trascinava in fondo al giardino. Stavan sotto la pergola, su quella stessa panchina di vimini fradici su cui un tempo Léon l'aveva guardata con tanto amore le sere d'estate. Ma lei adesso non pensava più a quello. Se pioveva, andavano a cercare rifugio nel gabinetto delle visite, tra la rimessa e la stalla. Lei accendeva uno dei candelieri della cucina che aveva previdentemente nascosto dietro i libri. Rodolphe si installava là come se si trovasse a casa sua. La vista della biblioteca e della scrivania, di tutta la stanza, insomma, suscitava la sua allegria. Non poteva trattenersi da prendere in giro Charles in un modo che imbarazzava Emma. Lei avrebbe desiderato che l'amante si mostrasse più serio, persino più drammatico all'occasione, come appunto quella volta in cui lei credette di sentire un rumore di passi avvicinarsi sul viale. «Arriva gente!» proruppe. Lui soffiò sul lume. «Hai le pistole?» «Per farne cosa?» «Ma per difenderti!» replicò lei. «Difendermi da tuo marito, da quel poveraccio!» E Rodolphe concluse la sua frase con un gesto che voleva significare che gli sarebbero bastate 2 dita per schiacciarlo, il marito tradito. Lei restò ammirata da tanta spavalderia. Certo, quella manifestazione di indelicatezza, di ingenua rozzezza, un poco anche la scandalizzò. Rodolphe comunque ci meditò parecchio su quella faccenda delle pistole. Se lei aveva parlato sul serio, era una cosa piuttosto ridicola e anche antipatica. Lui non aveva alcuna ragione per detestare quel disgraziato di Charles, non era mica geloso. E poi, a quel proposito, Emma gli aveva voluto fare un gran giuramento. Ecco un'altra cosa che lui non trovava di buon gusto. D'altra parte, l'amante andava diventando sempre più sentimentale. Aveva preteso che si scambiassero miniature, che si tagliassero ciocche di capelli. E ora voleva un anello, una vera fede nuziale in segno appunto di fedeltà eterna. Eppure lei gli piaceva sempre. Ne aveva avute ben poche lui d'un simile candore. Quell'amore senza libertinaggio era un'autentica novità per lui. Lo sottraeva alle sue abitudini ormai facili, blandiva il suo orgoglio e la sua sensualità insieme. Certo di essere amato, finì per non avere più troppi riguardi. A poco i suoi modi mutarono. Non le rivolgeva più come una volta quelle paroline dolci che avevano la capacità di scioglierla in lacrime. Non le elargiva più come una volta quelle veementi carezze che avevano il potere di farla impazzire. Così il grande amore in cui viveva immersa parve impoverirlesi sotto, al pari dell'acqua d'un fiume assorbito dal suo letto. E alla fine lei scorse il fango del fondo. Non voleva crederci. Esagerò in tenerezza. Rodolphe riuscì sempre meno a nascondere la propria indifferenza. Lei non sapeva più se rimpiangesse di avergli ceduto o invece desiderasse di amarlo maggiormente. L'umiliazione di constatare la propria debolezza degenerava in rancore temperato dalla voluttà. Non era affetto, era una seduzione continua. Lui la soggiogava, lei ne aveva quasi paura. Le apparenze, tuttavia, non potevano essere più tranquille. Rodolfo era proprio riuscito a condurre l'adulterio secondo la sua fantasia. In capo a 6 mesi, quando arrivò la primavera, si trovarono a fronteggiarsi come 2 sposi che tengano viva, serenamente, una fiamma domestica. Era l'epoca in cui papà Rouault inviava il suo tacchino in eterno ricordo della gamba rimessa a posto. Il regalo era sempre accompagnato da una lettera. Emma restò qualche minuto a rigirare quel foglio spesso tra le dita. Evidentemente l'inchiostro doveva essere stato asciugato con la cenere del focolare, perché un poco di polvere grigia scivolò dalla lettera sulla sua veste e lei credette addirittura di vedere suo padre chinarsi sugli alari per prendere le molle. Quanto tempo era stata lì accanto a lui, sullo sgabello davanti al camino, intenta a porgere alla gran fiamma crepitante di giunchi marini la punta di un ramo. Ma chi dunque la rendeva tanto infelice? Quale assurda catastrofe l'aveva colpita? Lei sollevò il capo, si guardò intorno, quasi potesse scorgere la causa di quanto la faceva soffrire. Un raggio d'aprile ruzzava sulle porcellane dell'étagère. Il fuoco ardeva. Sotto le pantofole lei poteva sentire la morbidezza del tappeto. La luce era chiara, l'aria tepida, e di là la bambina rideva a singhiozzi allegri. La piccola infatti si rotolava sul prato in mezzo all'erba messa a seccare. S'era buttata a bocconi su un mucchio. La serva la tirava per il sottanino. «Portatemela!» disse Emma. Aveva un gran desiderio di abbracciarla. «Quanto ti voglio bene, figlia mia!» «Povera cara piccina, quanto ti voglio bene!» Poi, accortasi che Berta aveva la punta degli orecchi un poco sporca, suonò in fretta per avere dell'acqua calda e la pulì, la cambiò di biancheria, di calze, scarpe, si informò sulla sua salute come al ritorno da un lungo viaggio e alla fine, baciandola di nuovo e piagnucolando un poco, la riconsegnò alla serva, piuttosto stupita da una simile esplosione di affetto materno. Quella sera Rodolfo la trovò più seria del solito. «Un capriccio, le passerà presto», pensò. E mancò a 3 convegni di seguito. Quando la rivide, lei, tuttavia, si mostrò ancor più fredda, quasi sdegnosa. «Hai proprio tempo da perdere, carina». E lui ebbe l'aria di non notare minimamente i sospiri malinconici di lei e neppure quel fazzolettino che continuava a venir fuori. Fu allora che Emma assaporò il pentimento. Arrivò persino a domandarsi perché avesse in odio Charles. Non sarebbe stato meglio tentare di amarlo? Certo, il marito non offriva troppa presa a simili ritorni di sentimento. Così lei si trovava molto impacciata nelle sue velleità di sacrificio quando si fece avanti il farmacista a offrirle la grande occasione. Omè aveva letto di recente l'elogio d'un nuovo metodo per la cura dei piedi storti e, come sempre fervente partigiano del progresso, aveva concepito la patriottica idea che Yonville, per essere all'altezza, avrebbe dovuto vantare operazioni di stefopodia. «Dopotutto», diceva ad Emma, «che rischio c'è? Notate bene!» Ed enumerava, alzando un dito dopo l'altro, i vari vantaggi del tentativo. «Successo quasi sicuro, sollievo e abbellimento del paziente, rapida celebrità per l'autore dell'operazione. Perché vostro marito, ad esempio, non potrebbe guarire quel poveraccio di Ippolito del Leon d'Oro?» A costui non mancherebbe certo di raccontare la propria guarigione a destra e a manca. Ne sarebbero edotti tutti i clienti dell'albergo. E poi... Omè adesso parlava a bassa voce e si lanciava occhiate intorno. Poi chi mi potrebbe impedire di inviare al giornale una notarella a questo proposito? Dio mio, un articolo circola, se ne parla. Da una palla di neve può nascere una valanga. Chissà, chissà. Effettivamente Bovary poteva riuscire. Emma non nutriva dubbi circa l'abilità del marito, e quale soddisfazione sarebbe stata per lei la consapevolezza di averlo spinto a un'impresa da cui fortuna e reputazione sarebbero risultate accresciute e rafforzate. Lei chiedeva solo di appoggiarsi a qualcosa di più saldo dell'amore. Sollecitato dunque dalla moglie e dal farmacista, Charles finì per lasciarsi convincere. Thank you.